Cade Milano, torna a volare lo spread. Il tonfo di Unicredit, meno 17,3%, e delle altre banche trascina Piazza Affari a un meno 3,6%. Questa è l'apertura di oggi del Sole 24 Ore, che fin dalla prima pagina sottolinea il tema cruciale della riforma del Trattato europeo. Il nuovo testo dell'UE apre alle richieste di Roma, attenuati gli obblighi di ridurre il debito. Cade la borsa, allarme spread, quindi titolo identico per Repubblica, che in prima pagina porta il tema della violenza. Roma naturalmente, ma non solo. Roma violenta è caccia ai killer, il Viminale dice ora più agenti. E naturalmente fin dalle prime, e quasi tutti i quotidiani lo riportano, continua il tema Cortina, ormai, anche se insomma bisognerà un po' sganciarci da questa definizione settimanale di associazione così stretta tra una località e il tema dell'evasione. Ma insomma, fisco, sono 190.000 i poveri con il SUV, la finanza dice Cortina è solo l'inizio. Richiamo all'antitrust, liberalizzare subito Poste, energia, servizi. Giornata drammatica in borsa. Monti intanto vede Sarkozy e Napolitano dice affidabili sul debito. Intanto l'Istat, un giovane su tre non riesce a trovare lavoro. Questa la scelta della Stampa di Torino, che di fatto fa una sintesi dei temi economici, di una parte dei temi economici di giornata, ma a centropagina anche il taglio alle spese militari di Obama. Obama taglia le spese, il presidente via 450 miliardi, ma dice manterremo la superiorità e sfida la Cina. Dalla Stampa un'anticipazione decisamente più rilassante su questi temi così impegnativi riguarda i cani. Il mondo gira intorno ai cani. Negli ultimi tre mesi sono usciti 87 volumi sul miglior amico dell'uomo. La mania di massa dilaga ovunque. Forse c'è bisogno più che mai in questa fase di una rilassante passeggiata col cane. Ma continuiamo. Borsa in caduta, lo spread risale per il Corriere della Sera, che a centropagina riporta una fotografia di Eve Arnold, che è morta a 99 anni, fu la fotografa di Marilyn Monroe, la prima fotografa Magnum. Eve Arnold, una leggenda della fotografia, si è spenta ieri a 99 anni in una casa di riposo di Londra. Il suo nome è legato alla sensibilità di uno sguardo capace di ritrarre con eleganza la mondanità, le grandi dive, ma anche di raccontare il malessere degli ultimi. Celebri i suoi scatti di Marilyn Monroe, è proprio uno di questi scatti, oggi campeggia sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sempre dalla prima, il tema dei costi della politica, il tema degli sprechi, un'anticipazione sulla Calabria, un articolo di Gian Antonio Stella, il titolo è Calabria, le spese coperte dagli omissis. Omissis, omissis, omissis, la risposta più sfacciata a chi si sgola sulla trasparenza nei conti pubblici è in certi bollettini ufficiali della Regione Calabria, la quale, costretta per legge a rendere noto come usa i soldi, copre i nomi dei destinatari, anzi degli oscuri destinatari di qualche decreto di spesa, con ancora più oscuri omissis. Violenza a Roma, rinforzi e accuse. Il Messaggero, appunto, quotidiano romano, già ieri apriva intorno ai fatti, alla violenza selvaggia che ha portato alla morte di un commerciante della sua bambina. Un solo colpo ha ucciso il padre e la figlia. L'ambasciata cinese, prendete gli assassini. Il governo invia subito 130 agenti. Alemano dice è finita la nostra pazienza. Una prima pagina davvero dominata da questa vicenda. Shock e polemiche a Roma dopo il duplice omicidio di Tor Pignattara. Il governo appunto invia 130 uomini. Sul fronte delle indagini si è scoperto che il commerciante cinese Chu Cheng, 31 anni, e sua figlia, la piccola Joy, di appena 9 mesi, sono stati uccisi l'altra sera al Casilino da un solo colpo di pistola che ha trapassato la tempia della piccola per finire dritto al cuore del padre. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata ieri pomeriggio. Le indagini dei carabinieri invece avrebbero accertato che c'è un terzo uomo, un complice dei due assassini con il casco, che li aspettava su uno scooter, e immediatamente viene data voce, dato spazio alla rabbia del quartiere, era gente per bene. C'è rabbia a Tor Pignattare, stupore, i residenti non vogliono credere che uno di qui, uno che parla italiano, possa essersi macchiato di tanta ferocia. Un pensionato cliente del bar gestito dalla famiglia cinese aggiunge: ditelo, era gente per bene, spesso mi capitava di fermarmi a parlare con loro, la bambina era stupenda, una bambolina, giocava con la mamma, sorrideva, era gente che viveva di lavoro, si alzava alle 5 del mattino, finiva la sera alle 10, non come tanti che conosco da queste parti. E su questa vicenda un commento, un racconto firmato Dacia Maraini che vi leggo alcune righe, dice: cosa possiamo dire di una città che non sa difendere i propri figli più fragili e indifesi? Ogni giorno ci tocca leggere di bambini che vengono picchiati, usati, abbandonati, uccisi in una rapina a mano armata, come è successo a Tor Pignattara, un quartiere di periferia ormai diventato punto nevralgico di una città multietnica come Roma. Ai tempi dei racconti romani di Moravia, dei primi film di Pasolini, Roma era già una città difficile, piena di ladruncoli e tagliaborse, ma prosegue la Maraini, una città molto diversa, molto distante. Ancora le prime pagine, i mercati crollano, Monti vola a Bruxelles, questo è il titolo di apertura del giornale. Borse europee al tracollo, Piazza Affari perde il 3,6%, la sobrietà, aggiunge il giornale diretto da Alessandro Sallusti, non basta. Lavoro, giovani fuori gioco, invece per Avvenire. Effetto a catena per i timori di un crack ungherese, la debolezza delle banche spagnole, Milano meno 3,65, oggi il vertice con Sarkozy. Anche invece sul quotidiano dei vescovi italiani, il diktat di Boko Haram in Nigeria e l'attacco nuovo, un ennesimo attacco in chiesa, 6 vittime. Allo scadere dell'ultimatum, naturalmente parliamo della Nigeria, allo scadere dell'ultimatum lanciato perché i cristiani lasciassero il nord della Nigeria, il terrorismo è tornato a colpire. Uomini armati hanno attaccato una chiesa protestante nello stato di Gombe. Almeno 6 fedeli sarebbero rimasti uccisi e 10 feriti. Si sospetta un ennesimo assalto della setta estremista islamica Boko Haram. La casta si dà l'aumento, spudorati, questo è il titolo di Libero. Oggi, anziché tagliare gli stipendi dei parlamentari, la politica alza ancora le spese. Più soldi a Stato, giudici e ministri. Per il Riformista è il Grand Tour di Monti, missione europea del Premier, ma anche in prima pagina una denuncia che è stato lesto a riscuotere ma è un pessimo pagatore. Le PMI in crisi, anche 1247 giorni per incassare. Le aziende non ce la fanno più. Il credit crunch, la stretta del credito sta soffocando il tessuto produttivo del nostro paese. È in atto un effetto domino che investe le imprese italiane. Violenza capitale è il titolo dell'Unità. L'immagine è quella dei corpi sull'asfalto coperti da un telo sotto lo sguardo che pare davvero persino, come dire, attonito, nonostante siano appunto professionisti, visto che sono carabinieri e agenti di polizia. 35 omicidi in un anno in questa violenza capitale. L'uccisione del giovane cinese e della sua bambina è solo l'ultimo drammatico episodio. Ancora l'Europa trema, borsa impicchiata, ma anche hanno mirato alla piccola gioia. Ecco, la questione è sempre quella del duplice omicidio di Roma, anche sul Secolo XIX, quotidiano genovese. Roma sconvolta per la bambina cinese uccisa con il padre. Padri al lavoro, figli a casa, invece oggi la Padania, il governo innesca uno scontro tra generazioni, non ci fanno più andare in pensione, i giovani non riescono più a trovare occupazione. L'Istat dice è l'effetto della nuova previdenza. E poi nel taglio basso, il carroccio nel nord-est, i blitz fiscali fateli al sud, declinazioni del tema appunto, diciamo, della vicenda Cortina e dei controlli del 30 dicembre scorso. Il controllo a tappeto operato l'altro giorno dall'Agenzia delle Entrate e dalla Finanza a Cortina d'Ampezzo è stato un blitz tutto sommato positivo, scrive oggi la Padania in prima pagina. Ma se la stessa operazione a sorpresa venisse effettuata in qualche località di qualche località di ugual prestigio nel mezzogiorno, c'è da scommettere che se ne vedrebbero delle belle. Insomma, per la Lega il controllo viene definito tutto sommato positivo, ma l'invito, come dire, leghista è quello di spostare lo sguardo altrove. Il manifesto fronte orientale, il fronte orientale è quello che oggi significa Ungheria, Ungheria sul crollo del crack, crolla il fiorino, i rendimenti dei titoli di Stato schizzano al 10%, il governo si appella all'UE e all'FMI, ma rimane lo scontro sulla Costituzione. Il Giorno, caccia alle belve, ancora Roma, e in questo caso la fotografia che domina gran parte della pagina, appunto della prima pagina del giornale, rappresenta la disperazione, i soccorsi alla nonna della piccola Joy, la bambina cinese di 9 mesi uccisa appunto con il padre. Il Fatto Quotidiano: vogliono scipparci il referendum, dalla Consulta filtrano veline non smentite, l'11 gennaio sarà bocciato il quesito antiporcellum per non disturbare i partiti al governo. Parisi e Di Pietro, una vergogna, in fumo più di 1 milione di firme. Il referendum ovviamente per la legge elettorale. 7:34 minuti, la riforma del trattato è uno dei nodi di questa, appunto, dell'esordio di questo anno del 2012 della politica, naturalmente dei rapporti e all'interno dell'Europa, quindi per l'Italia, ma non solo per il sistema, e naturalmente l'Italia compie le sue scelte che a volte possono essere colte anche attraverso un semplice, tra virgolette, scalo a Bruxelles. Federico Fubini sul Corriere dice: anche la scelta di uno scalo a volte può diventare un programma politico. Che Mario Monti abbia scelto di arrivare a Parigi oggi per l'incontro con Sarkozy da Bruxelles e non dalla propria capitale suona in qualche modo come una dichiarazione. Il tour del Premier parte oggi dall'Eliseo, passa da Berlino tra 6 giorni e si conclude a Downing Street, quindi a Londra tra 12, ma è preceduto da un gesto europeo chiaro e forte di fronte a 3 leader assediati dalla propria stessa ambiguità. Ecco la riforma del trattato nella prima pagina del Sole 24 Ore con la nuova bozza, e dunque apre alle richieste italiane di ammorbidimento degli impegni di riduzione del debito pubblico. La nuova bozza di trattato UE preparata a cavallo dell'anno. Nel testo, su cui tornerà a riunirsi oggi a Bruxelles il gruppo di lavoro incaricato, appare un riferimento, seppur meno esplicito di quanto chiesto dall'Italia, ai fattori rilevanti di cui tener conto negli impegni di risanamento del debito oltre il 60% del PIL fissati in un ventesimo all'anno. La questione era, in estrema sintesi, gli impegni di rientro del debito a tappe forzate, se sono troppo rigidi strangolano la crescita. L'Italia e i paesi che sono numerosi affrontano in maniera particolarmente critica la questione del debito, intendono intervenire prima che entri in gioco un meccanismo che potrebbe appunto rivelarsi estremamente pericoloso negli anni a venire. Ecco, nella bozza del trattato dunque entra oggi Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, dice: per l'Italia la questione è l'articolo 4, allora, che prevede appunto la questione del risanamento. Nel presentare emendamenti alla prima bozza, il governo Monti aveva chiesto che fosse ricordata la recente riforma del patto di stabilità, e questo ammorbidisce l'impegno tenendo in considerazione i cosiddetti fattori rilevanti. La bozza accoglie la richiesta italiana, tuttavia menziona l'articolo 2.1a di introduzione, allorché l'emendamento italiano si riferiva in generale a 2 regolamenti. È possibile che alcuni paesi, come l'Italia e la Francia, vorranno agire per evitare qualsiasi dubbio su un tema così delicato, complesso, tecnico, tavoli di lavoro in corso, quindi da una parte c'è un grande lavoro di tecnici e specialisti che sono al lavoro peraltro appunto dal 9 dicembre scorso, da quando il vertice a Bruxelles ha definito il progetto di riforma e che ora, come dire, contrattano e lavorano appunto sui dettagli tecnici. Intanto però ci sono le piazze, ci sono le crisi che esplodono da una parte all'altra dell'Europa. Luca Veronese racconta proprio quella ungherese, l'Ungheria sull'orlo del default, a vuoto le emissioni di titoli pubblici che schizzano al 10%, il fiorino ungherese, l'Ungheria non è ovviamente nei 17 dell'euro, ai minimi. Viktor Orban spaventa i mercati, la linea autarchica del premier populista ungherese fa fuggire gli investitori e avvicina Budapest al default. I ripetuti scontri di questi mesi con l'Europa e il Fondo Monetario impediscono al paese di accedere a quel sostegno che sembra ormai vitale per l'Ungheria in crisi di liquidità. Questo sul fronte appunto della politica europea. Tutta la prossima settimana, le settimane a venire, tutto il mese di gennaio ci torneremo su. E ora ritorniamo invece nelle pagine italiane e torniamo a parlare di Cortina, ma insomma soprattutto di politica dell'evasione fiscale. Avete visto gli annunci, li avete sentiti da parte appunto delle autorità preposte. Il fisco sostanzialmente dice i blitz proseguiranno e oggi a pagina 11 del Sole c'è uno schema appunto che fa il punto sui settori, da un lato su Cortina, i ristoranti, le differenze tra reddito dichiarato che variano circa tra i 12 e i 40 mila euro l'anno, ma anche appunto sulle zone più sensibili, sulle parti più delicate di questa materia. Ma oggi è anche giorno di commenti, se ne sono registrati molti a proposito della natura dell'intervento, sull'opportunità. Oggi proprio sul giornale c'è un fondo di Vittorio Feltri che parla di fisco spettacolo in azione a Cortina d'Ampezzo, meta ambita da ricchi, semiricchi e finti ricchi. Questa ha dato almeno un risultato, tutti ne parlano in bene o in male. I controlli effettuati dagli agenti delle tasse negli esercizi pubblici hanno miracolosamente fatto quadruplicare gli incassi. E questo è un punto fermo dell'effetto 30 dicembre a Cortina. Questa è la lettura più convincente dei fatti, scrive Feltri. Se fosse anche corretta, avremmo la dimostrazione che la famigerata evasione è un fenomeno reale e non un'invenzione dei soliti malpensanti. Ciò che comunque lascia perplessi e addirittura offende è il modo in cui ha agito l'Agenzia delle Entrate. L'Italia si estende dall'Alpi al Canale di Sicilia, come mai invece le verifiche si sono concentrate esclusivamente nella cittadina dolomitica, trascurando il resto del paese. Qui Feltri ripercorre un po' quella linea che abbiamo citato nella lettura delle prime pagine e che ritroviamo sulla Padania, in cui appunto sono in molti a lamentarsi, o meglio alcuni lamentarsi da nord, in questo caso è Zaia dal Veneto, sul fatto che i controlli appunto secondo loro si concentrano nel nord. D'altra parte è anche vero che le località turistiche invernali particolarmente lussuose si concentrano nelle Alpi, e su questo credo non ci piova. Ma c'è anche invece chi scrive in maniera del tutto diversa, e Gad Lerner oggi su Repubblica, la destra che difende gli evasori. Insomma, al di là del caso specifico, che ovviamente non può essere circoscritto a una località turistica, resta di fondo il grande tema dell'evasione fiscale in questo paese. E allora Lerner scrive: da Panizza alla Santanchè, dal leghista Fugatti a Galan, è tutto un inorridire per l'attentato alla libertà perpetrato da uno stato di polizia fiscale, con tanto di solidarietà per i poveri commercianti ingiustamente accusati di disonestà e molestati a Capodanno nell'esercizio del loro lavoro. fino al capogruppo Cicchitto, che si scaglia direttamente contro il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, accusato di confezione ideologica del controllo fiscale, o peggio, di operazione politica e mediatica di carattere propagandistico. E poi, dice, scrive Lerner, tocca alla Gelmini, fino a ieri responsabile dell'educazione dei nostri figli, manifestare lo sdegno. L'idea che la ricchezza sia un male, un fondamento ideologico della sinistra radicale, non credo possa essere condivisa da un esecutivo che fonda la sua maggioranza sul PDL. Che gli 80 ispettori entrati in azione a Cortina siano in realtà dei militanti vendogliani travestiti? Perché mai la loro azione risulterebbe incompatibile con un programma di governo che pure ha assunto la lotta all'evasione fiscale tra le sue priorità? Siamo al dunque, scrive Lerner, perché l'incattivirsi di una crisi che impoverisce i ceti popolari e brucia posti di lavoro ripropone con brutalità le differenze di classe. La prolungata falsa rappresentazione di uno stile di vita omologato nel consumo di massa non regge più quando lo Stato, per non fallire, è costretto a mettersi a caccia della ricchezza nascosta. Odio di classe, temo per loro che ormai non attacchi più. Il vittimismo dei furbi abbindolava i poveracci quando si illudevano di poterli emulare e quindi li ammiravano, ma ora che le ricette anticrisi incidono profondamente sul reddito e sul risparmio dei cittadini, torna a contare in politica quella nozione di giustizia sociale fino a ieri oltraggiata, talvolta persino a sinistra, con l'ambigua raccomandazione a non lasciarsi tentare dalla cosiddetta invidia sociale. Lerner conclude: l'Italia dei tartassati si dividerà inevitabilmente nel conflitto sociale che accompagna le riforme del fisco, della previdenza, del mercato del lavoro. La sinistra certo faticherà a recuperare un rapporto con le classi subalterne nella bufera della crisi, ma la destra, che agita lo spauracchio di un'Equitalia bolscevica quando finalmente si perseguono i disonesti, è messa peggio. Bentornata alla politica e niente paura, contro gli evasori potrà essere interclassista. Stato lesto a riscuotere, ma pessimo pagatore. Oggi il Riformista, Gianmaria Pica. Le aziende sono il cuore pulsante dell'economia. In Italia ci sono 4,4 milioni di imprese che danno lavoro a 17,5 milioni di persone. Questa è la premessa, ma la situazione si fa drammatica sul fronte dei pagamenti dallo Stato alle imprese. Il problema è che questa macchina produttiva si sta fermando, manca la benzina e senza carburante i motori non partono, la pubblica amministrazione è il primo tassello del domino. Secondo i dati di Intrum Justitia, società leader in Europa nel settore di servizi e gestione recupero crediti, il mancato pagamento delle forniture costa alle imprese circa 10 miliardi di euro l'anno, un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture. Ancora più drammatica è la situazione per quelle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. I pagamenti vengono onorati in media 180 giorni dopo, con un ritardo medio nei confronti dei termini contrattuali di 90 giorni. Niente a che vedere con le situazioni che si verificano in altri paesi. In Francia le fatture vengono saltate a 64 giorni, in Gran Bretagna 47, in Germania solo 35. Insomma, un fattore davvero pesante. Parliamo anche di questo da tempo, chissà che questo 2012 non riesca a portare interventi reali, magari sicuramente non miracolosi ma pratici, perché questa distanza, 180 giorni, 35 in Germania, insomma, si deve ridurre questo enorme divario. Si parla ancora di casta, vi avevo detto Libero oggi ci apre: la casta si dà l'aumento. Scrive Antonio Nicastro: più tagli per tutti, meno che per la presidenza del Consiglio, organi costituzionali e ministeri con portafoglio. Tranne rare eccezioni, il 2012 porterà aumento dei costi per fare marciare i ministeri, un paradosso che salta fuori applicando quanto elargiscono gli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo 2012. Un'altra forma, diciamo, un'altra declinazione di questo tema nel nel lungo articolo firmato da Gian Antonio Stella oggi sul Corriere. Sulla Calabria, un consigliere su tre non ha mai lavorato. Ecco, la questione che vi ho anticipato dalla prima del Corriere prende spunto dagli omissis, cioè documenti formali delle istituzioni regionali che abbondano di nomi coperti da nomi di persone e di società, appunto coperti dagli omissis. Lo denuncia un libro appena uscito, si intitola Casta Calabra, la politica sempre meglio che lavorare, firmato dal direttore del Corriere della Calabria Paolo Policheni, dai suoi giovani di punta. Prendete il più grande affare degli ultimi anni, cita come esempio la costruzione di 4 ospedali, raccontano gli autori. Le strutture saranno realizzate nella Piana di Gioia a Tauro, nella Sibaritide, a Vibo Valentia, a Catanzaro. Il costo previsto per i lavori è di 480 milioni e la Regione ne ha affidato la progettazione a una società in-house della Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde. Sulla procedura, la Procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta, ma il punto non è questo. Il punto è racchiuso in poche righe della convenzione calabro-lombarda dedicata alla riservatezza. Il passaggio prevede che la divulgazione di documenti che riguardano l'espletamento della convenzione sia concordata tra le parti. Insomma, accusa Policheni e i suoi cronisti, il suo gruppo di lavoro, i calabresi non potranno sapere nulla, e neppure ovviamente i lombardi e tutti gli altri italiani. Il quadro, dunque, in una società che chiede trasparenza, che esige trasparenza sui fondi pubblici, sulle attività di chi svolge appunto ruoli pubblici, sembra andare in questo caso in una direzione addirittura opposta. E gli spunti davvero qui sono molti. 23 milioni di euro la cifra annuale che la Calabria mette da parte per gli stipendi di consiglieri regionali, assessori esterni, e i numeri in sé non vogliono dire un granché, ma assumono un significato se pensiamo che in Emilia-Romagna, quindi una regione ben più popolosa, oltre che ricca, la cifra messa da parte dalla regione di 13 milioni di euro l'anno, sono 23 milioni in questo caso. Cresciuti enormemente in compenso, scrive Gian Antonio Stella, in regione gli addetti stampa, assunti senza concorso, a infornate successive della destra e della sinistra, e di nuovo della destra ancora pochi giorni fa, tra parenti, amici, compagni di partito, fino a diventare un battaglione, a decine negli uffici della giunta regionale, a decine in quelli del consiglio e via scendendo, passando per tutti gli enti subregionali fino all'ultima e più sperduta delle aziende ospedaliere. E poi ci sono dei grandi classici come l'ufficio a Bruxelles, soppresso, certo, dico certo perché c'è un riferimento, come dire, storico all'ufficio, agli uffici delle regioni a Bruxelles, ma per il quale, grazie a un contratto di 9 anni, la regione Calabria continuerà a pagare 300.000 euro l'anno di solo affitto fino al 2015, quindi soppresso, si fa per dire, non certo dai conti pubblici. Poi ci sono delle storie davvero straordinarie. Uno dei maggiori quotidiani britannici, The Independent, parla della Calabria, così almeno viene raccontato da Stella di un appunto di come i politici, alcuni politici calabresi abbiano vantato la pubblicazione sul quotidiano britannico di uno speciale sulla Calabria. Uno dei maggiori quotidiani ha dedicato un reportage di 2 pagine all'operato del presidente Scopelliti e dell'assessore Mancini. Il tabloid, nella sua inchiesta su infrastrutture e turismo nella nostra regione, ha messo in evidenza la strada per il successo intrapresa dalla Calabria. Peccato che, come poi rivelano i fatti, si sia trattato di uno spazio pubblicitario editoriale pagato e realizzato con Vox Media Partner, società esclusiva per la pubblicità del quotidiano anglosassone in Italia. Insomma, non c'è limite davvero, e di fronte ai tentativi, come avete sentito, anche come dire, molto, molto fermi di creare ombra, è opportuno parlare, raccontare questi casi che spesso peraltro vengono denunciati dagli ottimi colleghi calabresi, dalla stampa locale e da molte organizzazioni. Ecco, questo per alcuni dei temi principali. Oggi, come tutta questa settimana, peraltro ci sono tutta questa settimana di feste per molti è stata ricchissima su tutti i fronti e si conclude con un tema che andremo ad affrontare in maniera più approfondita a partire dalle 8:20. Il titolo è Obama taglia la difesa, finita l'era delle guerre. Barack Obama rimpicciolisce il Pentagono, si taglia tutto senza pietà, salvo nel Pacifico, eleggi Cina, e nel Golfo Persico, dove incombe la minaccia dell'Iran. Questa è la nuova era annunciata dal presidente che era al Pentagono, appunto, che ha parlato dal Pentagono. Lui d'altra parte è il comandante in capo dell'esercito, cosa che ha ricordato nel suo speech dicendo: come comandante in capo non ho nessuna intenzione di rinunciare alla superiorità militare degli Stati Uniti, ma è un tempo di trasformazione e da qui il taglio di 480 miliardi di dollari, ma spalmati su un decennio, alla più grande struttura militare del nostro pianeta. Le spese per la difesa italiana, a proposito di numeri e comparazioni, sono 180 le spese per la difesa in Italia sono state anche loro al centro in questi giorni di parecchi interventi. Avrete sentito l'intervista realizzata da Paolo Panceri al ministro della difesa Giampaolo Di Paola, che indicava tra i fattori prioritari un passaggio, una riduzione del numero complessivo dei soldati che in Italia, dei militari, sono circa 130.000. Torneremo a parlare di questo a partire dalle 8:20, ma adesso è tempo di sentire GR24. La linea torna alla regia.